Oi, ciao T, buonasera. Buona, buona. Cosa ti sembra questa radio? Già va bene, è buona. Amplificata, sì. Sì, buona, buona. Questa è la Fayette, quello che ti ho mandato la fotografia. Sì, lo so. Ce l'ho avuta anch'io, l'ho regalato. Male fatto, vedi, questa è una bella radio. Vabbè. Per un po' di favore mi sono dovuto sdebitare, capito? Ah beh, allora sì, dai. E quindi è come che l'hai venduta? Infatti, poi è innamorato, dice a te, la mia nuova nuova, non è quella. E ho avuto anche l'altro, quello grande. Ah, sì. Il grande sto dicendo io, un grande, quello di sotto, non quello, non l'MS, l'MS 200, non l'altro, quello c'è, il Tesla SSB 140. Sì, lo so. Ce l'ho avuto anche io, non neanche da tanto. Ce l'ha coso, Giuseppe, quello di Alghero, provato. Adesso ho provato, gli ho messo il più 4, quello tuo. Se sta andando bene, va bene. Sì, è buona la radio. Quella c'hai 120, io ho solo 40. No, questo c'è scritto 140, non l'ho provato per dire la verità. Allora, vediamo. Mi pare che è solo 40, lo sai. Il mio era 120. Dove c'è il pomellone, quello del Mickey Indy, lì avevano messo un potenziometro a tre scatti, faceva sotto normali e sopra. Ah, ho capito, no, questo è normale, dai. Normale, perché lì c'è il cambio canale e poi c'è volume squelch nel quel riquadro dove stai dicendo tu, diciamo, dai. Buono, è una bella radio, questa si sente bene, c'è un bel ricevitore anche con la radio, riceve molto bene. Minchia, è quello che mi piace, si sente molto bene, chiara, bella, perfetta. Sì, è bella, è anche bella esteticamente, anche se è un po' datata, però è bella anche esteticamente. Dove sei, a casa tua tu? Sì, a Capasà. 9:15, 9:15. Beh, c'è Walter, stamattina ha superato, non l'ho detto, ma i 30 li ha fatti superare. Vabbè, dipende anche con quanto stia andando. Li ha superati, diciamo che lì poco, non è arrivato al DB però c'era quasi, era al più. E dipende con quanto vai però. Ah, boh, questo lo ignoro, però immagino cosa stavo utilizzando. Appunto Baisho. Vabbè, cos'hai? La Ferrari non la può più, non ho capito. Infatti, ogni tanto dobbiamo mettere in moto, se no macello. Va bene. Poi mi sono sentito con Sandro. Diciamo la verità, che ho optato per una spesa nuova. Buono, va bene. Già, adesso ne attendo uno nuovo, però il simile nuovo. Sei contento tu? È una macchina nuova, quindi poi le modifiche possono sempre fare. No, c'era il tanto di farlo, non è che, però mi finisco questo anche, e a voglia. Va bene, non è un granché. Capito, se ne stanno disfando un po' di gente per questo motivo, non è un granché di radio, ecco perché hai risparmiato 50-70 euro, ma non so se hai fatto una cosa buona, va bene, là, comunque, pure sentiremo. Vabbè, non si vede, vi faccio questo, questo è, lo faccio ripristinare tutto quanto, ho già parlato con chi di dovere, quindi. Sì, ma quello a 6.900 gliene taglia proprio tutto, barba, capelli, shampoo, te li asciuga, ti fa la piega pure. No, sto parlando di questo, dell'altro che era fuori frequenza, hai capito? Hai preso quello di giù? Sì, l'ho preso, adesso lo faccio aggiustare, tutto quanto, ho già parlato, ti ripeto, con chi è di dovere, hai capito? Perché è stata una decisione un po' così. Cappa, va bene. Finiamo questo qua, lo mettiamo in ordine e ci mettiamo una cosa che ci dobbiamo mettere dentro, quindi credo che vada meglio. Sì, alla grande, va bene. poi già ne parliamo quando siamo pronti, sono sì, vabbè, non c'è problema. Ognuno con le cose sue fa dove vuole e fa ciò che vuole, capito? Beh, bello, bello, mi piace questa. Facciamo una ricezione fuori dal normale, confronto agli altri, diciamo, vabbè, baracchini normali, questo è già una stazione base. Quella è una bella radio, quella è molto bella. C'ha un bel ricevitore. Aspetta che mi hanno suonato la porta. Eia. Claudio, entra, io. Eccomi, sono rientrato. Che cazzo. Qua con un paio di pezzi nubi, che non costano esageratamente tanti, anzi, addirittura 9.900 costa un po' di più, ma questo vorrebbe. Sì, aspetta dopo. E di che cosa, Otti? Il CRT Superstar 9.900 però, non il 6.900. Ho capito. No, vabbè, ma non mi interessa. Non mi interessa, ho detto guardando giusto così per me. Addirittura c'era un altro, compra subito a 170 euro ed è un 3.900. Ce ne sono anche a 150 euro in scatola. Figurati, sì. In scatola, ma senza essere fatto nulla di che. Sì, normale, normale. Vedi, quello è buono. Quello è buono, perché ormai ha una radio d'attacco anche. E quello è. Vabbè, 3.900 comunque è sempre una bella radio. Sì, ma infatti già se ne trovo. Già se ne trovo. Busca una bella scheda accolta, adesso ce la butti dentro quello là. E allora? No, adesso va bene, voglio trovare prima tutti i pomilli, anzi prima di fare delle spese devo verificare se ne vale la pena aggiustarlo, perché deve valutare due cose, però credo che sia fatto il del tutto, e poi mi devo cercare i pomilli, niente di che, mi sarebbe un peggio anzi. E poi sì, i vari componenti. E a me cosa li manca? I pomellini e poi mi sembra già sia abbastanza in ordine. I pomellini li vitti dal. Anzi, credevo che mancavano i coperchi, invece ci mancano solo i vitti. Ma si acciappano otto vitti, già si trovano. Allora. E niente, bisogna guardare se ne vado appena come dentro, perché lui lo metterà al banco, capito? E lo riporterà allo stato originale, dopodiché farà l'operazione. Qua la fanno? E adesso vediamo se la cosa si può fare, capito? Se è in grado di poter andare avanti con l'operazione. Ma verso giù, centro Sardegna? Non lì, no, qua in zona, qua vicino a me. E poi però qua lo fa a livello allo stato naturale. E poi vediamo se glielo propongo, se può fare altre modifiche, altre cose, ecco, tipo come si chiama? L'Ecole, tutto come ce l'avete, l'Ecole ce l'ha già, se non sbaglio. No, il doppio modulatore, sì, l'Echo Cold, ciao, se è quello di giù che è preso, c'è l'Echo Cold, quello. Lo voglio sentire in FM con la radio, in banda. Sì, no, vabbè, questo adesso accende, ma sta più frequenza, quindi, è quella senza pomelli, sto parlando di quella. Ah, pensavo l'altra, infatti ho detto, poi quella la voglio sentire quando si in FM e manda laterale, cosa ne esce fuori? No, quella l'ho lasciata lì. Esatto, vedo il regalo. Dopo qua non ci sono più io. No. Ah, pensavo che vi prendo quella di giù, capito? No, quella che c'era sotto, diciamo. Gappa. Non ci ho preso nulla, comunque. Me ne ho mandato 2, 4, me ne ho mandato il radio. 2 uguali. E c'era quella che mancava nei pomelli e quella di sotto. Tu hai preso quella di sotto allora? No, io ho preso quella che ci mancava nei pomelli per farla aggiustare. Ah, ecco, adesso ho capito. Devo guardare se ne ho di quei pomelli. Cosa manca? adesso non ce l'ho la foto davanti. Praticamente ci manca quelli piccolini tutti quanti, anzi no, sì tutti quanti, perché gli altri sono fissi, e poi due di quelli che si muovono a metà, perché gli altri due ci sono. Allora, quindi ti manca, sì, adesso l'ho visto, allora te ne mancano due completamente, grosso e piccolo, e poi due piccolini, devo controllare cosa c'ho per vedere un po'. Beh, poi se vedo che le cose si sono messe a posto, nel senso che la radio funziona tutto quanto, allora li prendo un doppio modulatore, quello che c'è da prendere, capito? Mi dovrei fare una lista, Non ha bisogno questa radio di doppio modulatore. Qui ci devi mettere la scheda a colta e basta, perché è una radio che spinge già con una trentina di watt, questa fatta bene, ma non qua però, Cacchio, da spedire, poi vabbè, ti ripeto, ne abbiamo già parlato, se quella cifra lì è fatta, è finita, allora va bene. Io ti dico che per farla come si deve, diciamo, se vuoi una bucaria la puoi mandare qua, in Sardegna, se vuoi una bucaria. Se vuoi una radio come si deve, la devi mandare fuori. 10 andare, 10 a tornare e sicuramente un 150 euro di lavoro. Ho capito. Però bisogna vedere sempre se l'apporto l'ho fatto naturale e com'è. Se ne vale la pena farlo, capito? E appunto Baisso. Magari questa la porta allo stato naturale e te la lasci così com'è. È da vedere. Andave. Allora, che cosa devo fare io qua? Nuda, non fosse nuda, volevo attaccare un altro paio di radio, ma non la giocato. Adesso sei in fine, quindi. Già lo so, però non li voglio spostare, faremi. Va bene. Però con l'87 te lo voglio far ascoltare, giusto per curiosità, mi dici come esce. Dammi due minuti. Vai tranquillo, quello che abbiamo dato la foto con quell'altro sopra. Ehi, quello lì. Capito. Ora, 1, 2, 3, prova. Va bene la radio, sì. Ehi, ma si è attaccato ora? Prova. No, non l'ho attaccato, sono 2 watt mi pare che c'ha così. No, va bene, caspita. No, adesso sono distratto. Va bene. Allora, però c'ho il Mickey Gin che neanche alle ore 3. Allora, guarda un po', come è stata così a maletta il Mickey Gin, com'è la radio? È bella forte, io sto ascoltando con questa, non sono abituato con questa qua, però già la modulazione va bene, è forte. Ok, va, allora adesso metto il beat. Ola. Eia. Piccolino, ma è presente. Questo è così, piccolino. Ola. Adesso metto l'ecco. Cambio. Stai a trappere nelle scatole, se vuoi che radio accesa? No, era troppo di Mickey Gay, capito? Gatto. Allora, ti dico la verità, lo sto riguardando in foto. La radio in presenza in sé a me personalmente non è che mi piace così, anche se quelle linee non mi piacciono, non mi è mai piaciuta quella linea lì, però la modulazione è bellissima. Allora, in poche parole questo dice. Allora, così stacco, ecco, c'è niente, vero? No, così va bene. Così gli ho lasciato il bip e basta. Allora, questa c'ha la scheda madre dell'8001, questo è un 8001 alla fine, e che cambia frontalmente, non è bellissimo, però questa c'è una radio allucinante. E come è accaduto? Attorno a quello che ho detto io, a me personalmente così come la sto guardando non è che a mio piacere farlo, poi c'è chi piace, a chi no. Quindi io, a me piace molto il presidente Lincoln che esce una cagata, però frontalmente mi piace perché ha tanti pulsanti, tante manopole, capito? Mi piace così, come il Pluto lo stesso, la stessa cosa, tanti pulsantini, manopoline. Però la radio questa è micidiale, è bellissima. Questa è forte. E l'ho abbassata un pochino perché ce l'ho alle ore 3 Michigan, perché se no innesca, cazzo, è troppo forte. Allora, cosa c'ha? Cosa c'ha? Ah, poi c'è anche 10 kHz questa. FM, vabbè, la tua adesso non che hai, non c'ha l'FM, se no avremmo provato l'FM. Chi ha detto che non ha l'FM? Ce l'ha l'FM. Ce l'ha? Vuoi sentire l'FM questa? C'è la modifica, non me la ricordo, vediamo, aspetta un attimino. Cambio io, qui se mi segui. Hola, hola. 740, Gianni. Quello l'ho avuto, quello io, quello il test 740 l'ho avuto. Ma quello è uno strumento o quello ha due strumenti? No, a due, con un modulatore. Strumento rotondo? No, lo strumento è rettangolare. Ah no, quello lì era l'Washington, quello che sto sbagliando io. L'ho avuto comunque quello interessante, me l'aveva venduto Marco Scorpio. L'ho preso questo qua perché giusto per usarlo, che era sempre fermo, ma è una bella radio questa. È una bella radio, sì, radio. Esce anche bene, che bello. Con cosa l'hai abbinato? Con il Q4. Va bene. Una bella stazione. C'ha il coso in legno, mi pare, è vero quello lì, io ne ho avuto tanti di base, adesso non mi viene, però già ce l'ho presente più o meno. No, questo è in lamiera, però come che fosse legno, una specie di pellicola credo che abbia, però è in lamiera, L'altro, quello che avevo, il Ruiz, aveva il laterale in legno. Sì, un finto legno, forse è un adesivo che c'è sulla lamiera, però sembra legno. E ho capito qual è, l'ho avuto anche io quello, me l'aveva venduto Marco, e poi non mi ricordo, sì, l'avevo dato a Momolo, mi pare quello lì. Giulio, poi non so che fine abbi fatto. Avete parlato in due? Sicuramente sì. Ma già è un anno com'è? Va bene? Benone, non bene. Mettigin alle due così, Va benissimo, in AM è una bomboletta. Guarda, segnale come siamo? Adesso mi devi far mettere gli occhiali, se no ti con la cazzata. Vabbè, sto andando con circa un watt e mezzo, due di portante, va? E allora lasciala così perché mi ci dia, vai da 9 a 9 quasi 30. Allora a me vai da 9 a 9 e 10 con picchi positivi. Positivo. Ascolta, guarda, l'ho chiuso un altro pelino. Ha aumentato ancora la radio. Sì, e anche il segnale. No, sto abbassando i watt, non li sto sollevando. Lo so, se li ammassi vai in picchi positivi, allucinante. Aspetta un attimino, se mi ricordo una cosa, parlo un attimino, anzi che c'è solo la portante. Ok, prova a parlare ora. Ora, 1, 2, 3, prova il radio. Ora, la cipolla. Ti è poco. Ti ho attenuato a 5. Fai da 5 a 8, 9. Ti puoi immaginare i picchi positivi che sta dando quella radio lì. Ecco, spinge. Guarda, allora, guarda. Ora. Così l'ho aumentato un pelino ancora, Michi. Guarda, così allora è qua. Questa che radio è... Bulldozer, che radio è? Questo è l'Alan 87 già. Con l'eco chiuso c'è solo il bip, così la lanciamo con l'eco e lo facciamo ascoltare. Cambio. Si pare Gigi Vulcano. Capo la radio. Dio, questo qui nuovo l'hai fatto? No, già, ce l'avevo da un bel po' questo. Già va bene, sì, la M è una bomba. E andava. Oramai mi sono finiti quei periodi che tutti si modificavano gli apparecchi e cose. Mi hanno detto che non ci sono più nemmeno i camionisti da Cagliari, la Sassari a Cagliari dice che non c'è più nessuno, mi ha detto Domenico Tarzaretta, che non ne ha più nemmeno lui in casa. No, già ci sono, già, non ti preoccupare. Ci sono, KK, ci togliamo anche il bip. Facciamo anche per appena all'aria, e va più bene, no? No, ma va alla grande. Io ti ho detto, la mia cosa personale è che esteticamente non mi garba per la radio che è, però la radio è micidiale, è bellissima. Anzi, se con la scheda si può piazzare in questo chiuglio, non esiterò a metterla. Certo si può piazzare, tutto si può fare con la radio. Quello c'è bene quanto è questo, no, non è un problema. Dipende, ti ripeto, te l'ho già detto poco fa. Se la fai qua in Sardegna, va tranquillo che è una cagata. Chi c'è poco misuro, mi Gianni già lo sa. E, diciamo che quello che faceva le radio qua in Sardegna, che le faceva bene, mi sa che non le fa più. Tutto lì. Ma tu guarda quella che c'ha Gianni più lui, quel 48. Quello è fatto la Sabattino, è bellissimo la radio. Ah, mi sembra che l'ha fatta anche a me Sabattino, perché me l'ha portata a Gigino, a me è stata qua a fare. Allora, a Napoli? Ah, non lo so, io a lui quella, non so se l'ha spedito o meno, ma è detto che... Ah, non lo so, forse l'ha fatta ancora. Guarda, non ti voglio dire una stupidaggine, devo chiedere a lui se se ne ricorda ancora. Però mi ha detto che forse è morto chi l'ha fatta a me. Quello è quello di Carralba. Quello di Carralba. Ah, è fatta allora, dai. Perché poi c'è Albino, però Albino mi ha fatto l'altro 48. E poi c'è Roberto Rapido. Capito? Questa è fatta Roberto Rapido. Capito? Questa è fatta qua in Sardegna. E non ne fa più Roberto, così è. Ah, poi non lo so, io ci ho perso i contatti, boh, non te lo so dire. No, io sinceramente non lo conosco. Però prima, come si suol dire, prima di farti le seghe mentali, uno deve, prima di tutto, scusiamo la frase, deve vedere se va in porto la prima partenza. Infatti, infatti. Guarda, questo qui è, bisogna controllare lo smitter, secondo me è una trottatina, forse vuole leggermente mollata la lancetta, che, non lo so a chi lo manda. Vabbè, però lo smetto di non raccontare. Ma si inchioda? Quando parli tu sali Santiago 9, quando sale Dino sale 9.10, però poi non torna indietro, capito? Rimane fisso a 7. Allora, io avevo lo stesso difetto nella LAN 48 e avevo comprato lo Smith nuovo per piazzarglielo. Poi ho detto aspetta che apro questo qua, ho guardato e c'era la lancetta leggermente storta, ho preso una di quelle pinzette fine fine che si usano in oroficeria, queste cose qua, e l'ho praticamente addrizzata piano piano, l'ho provata senza chiuderla e andava bene, ho preso lo chiuso ed era perfetta, adesso funziona benissimo, non si blocca più. Che secondo me questa qui è così, perché allora in poche parole qua è stato messo al posto della luce sua quella classica gialla, no? Hanno messo un led color ghiaccio, capito, per fare più luce, ma secondo me sta toccando o qualche filino del led, capito? E sicuramente è stato toccato qualcosina, perché questo andava bene il corso, lo smitter. Vabbè, comunque, sono desidero di smitter, non è che voglia sa comprarlo nuovo. Sì, Massimiliano, già è così, come ha detto Gianni, spesso anche a me. Ah, infatti a me mi hanno messo lo stesso smitter, tipo quello del Plus, ma lo voglio cambiare perché nel 48 non mi piace così, mi piace l'originale. Ma quello del brutto nel 48 non va bene. No, tipo quello del brutto, per farti capire, perché è nero, non mi ricordo di che radio è nero, non mi piace, è nero, verde e rosso. Ho capito, vabbè, quelle lì vendono anche la carta, puoi cambiare la carta di dietro. Sì, ma neanche per l'appetto che ti devi prendere, che sei prima a comprare lo smitter nuovo, e non so che altro. Compri la carta, la porti in una tipografia, fin cui la trovate. Ma su che apparecchio è Pino? Sul 48, sul mio, ti ricordi quella mascherina che mi hai dato tu? Ho piazzato quella mascherina lì, quella croata, ci ho messo le luci croate, però lo smitter non andava bene, se andava non mi ricordo cosa cacchio era successo, e ho dovuto cambiare lo smitter. Ah, l'hai cambiato già? L'ho cambiato, ma non mi piace, voglio mettergli l'originale, quello, il classico, il verde, quello che c'è sempre, dai, il suo, originale. Mi sa che io ce l'ho. Mi sa che io c'ho tutti i pezzi del 48. e c'ho qualche cosa, boh, non me lo ricordo se ce l'ho smette, la mascherina l'ho data a te, con perché ce li ho? Nuovi, perché io avevo comprato, ti spiego, un Alan 48 di quelli che dicevano che erano modificati dalla fabbrica, andava bene per un periodo, poi si è bloccato di colpo, non si è capito più che cosa avevo, se l'ho provato a aggiustare non si poteva aggiustare, perché c'ha un circuito, un microcircuito, e niente, allora l'ho smontato e ho preso i pezzi che mi servivano. E allora cerca nel cassetto e dimmi se ce l'hai, vengo, lo prendo, te lo pago, me lo piace. Non sai che mi sembra che ho qualche mascherina io adesiva per il 48 o anche del forse qualcosa del brutto ci dovrebbe avere, devo controllare quei cassetti magici. Io ho quella americana per il magno. No, io l'ho lasciato normale, non mi piace quella americana. Io l'ho lasciato normale, mi sembra un po' di insalagatura. Al magno non è bello così come hai detto, ma non mascherato, cacchio. No, sono le sue originali, L'originale della casa te la mando insieme alla scatola dove c'è il magno, ti mando anche la mascherina, se tu vuoi la puoi cambiare, se no la lasci com'è. È dalla casa che te lo mandano. Però il magno per me è bello com'è, senza stare lì a attaccarci niente. Il Magnum mi pare, tu ce l'hai modificato, vero Massimiliano Magnum? Io sì. Io invece non l'ho voluto modificare, perché te cosa modifico? Va tutto canto, cosa modifici? E io vabbè, cosa c'entro? Già, io sono del parere, a me l'eco che fanno i in radio, il reverbero, a me non piace tanto, devo essere sincero, a me piace più anche le camere eco, ce ne sono carine, però l'eco cold è sempre più bello. E io te l'appoggio. E io spingo. Va bene, dai, sgancio questa radio, rimetto un po' a fuori. Va bene, avrei un'altra da provare, ma quella la prossimo giro, no? No, adesso io invece non uscirà, perché credo che non esca. Però metto il microfono all'MS200 e mi dite se sta andando, dai. Scappa già, prova, io nel frattempo sgancio già. Ehi, Dino, a me dell'MS200 mi piace tutto, tranne una cosa, l'Uguloli, che è marrone, mamma mia. È vero. Aspetta che così almeno profilo, anche se non abbia neanche cazzo, aspetta. E io il marrone è un colore che non sopporto, proprio non mi piace niente. Qua dimmi blu, dimmi. Un compromesso qua, allora. Sono dietro ormai che sto attaccando un attivino a un cavo. Vediamo se riesco a. Non lo so se esce, aspetta che commuto e mi dici se sta andando. No, non sta andando. Come mai? Non accende? No, accendere già accende, ma non va importante. Hai da controllare, dai. Ma cos'è? La scuderia di Valle? Sì, stamattina ero lì a portare un po' di farraglia per vedere se funziona. Lo stiamo facendo girare così almeno si ricaricano un po' e insomma, non rimangono sempre spinti. No, ma ero sicuro che non funzionava questo. Prova l'altro microfono. Allora Antonio lo fai controllare. No, però Fabrizio ha già parlato anche perché ha alcuni pezzi di un altro del tutto e quindi deve controllare anche quello, capito? No, però Antonio è già sapente lo stesso, già bravo. Sa cosa cambiare, cosa farci bruciate quantomeno. No, già vabbè. Cosa devo dire? È possibile Massimiliano, non so se lo conosci l'M200. L'MS200, certo ce l'ho avuto, l'ho regalato. MLS200. No, LMM200. Ah, no, io LMS, quello che c'è manopoloni grossi, è marrone, l'unica cosa che non mi piaceva era il colore. Allora io ho provato questo adesso e non fa, quindi va a controllo. Io sto parlando di un amplificatore piccolino, tipo il 747, appena forse più piccolo, però che dà gli stessi watt, si chiama LMM200. sono le due cose diverse. L'LMS200 è un apparato, capito? È un apparato radio. E io avevo capito male allora. Io ho avuto l'LMS200 che è un bellissimo apparato, è un bel grande, non è una stazione base ma rimane molto grande come apparecchio. E ha i manopoloni belli grossi, è bello tutto tranne il colore. Io l'unica cosa che mi fa con l'apparecchio è prendere i coperchi e verniciarli di nero. Poi tutto il resto è bellissimo. E c'ha una prerogativa, bisogna mettere la del microfono, piazzarli in quel sa delta che assomiglia a un rasoio, esce una bomba. Oh, allora, lo so Gianni, ce l'ho davanti, stavo provando quello lì proprio, lo conosco, ce l'ho qua, è quello che non esce di rack. Però volevo fare un'altra domanda, se a Massimiliano, se conosce questo linealetto qua. Non ce l'ho presente, devo essere sincero. Ah vabbè, allora niente, perché ho provato il 747, quello che già ne hai dato anche tu a Walter. Io l'ho preso a Cagliari da un amico stesso, che fa da 50 in portante bianca, modulato, e va a toccare anche i 100-110, caspita, è fortissimo questo qua. Ma rosso è? Cosa? Ho detto, se è rosso. No, non è rosso, è il modello quello nero. Ah, ho capito, sì, è tutto dissipatore, va. Però c'ho un fischio, vero? Oh, un attimino, dai, io vi saluto, devo andare in farmacia, ma ne stavo dimenticando di ritirare la medicina. Ci sentiamo magari più tardi. Ciao, buona continuazione a tutti. Ciao anche all'ascoltore. Ciao Gianni, a dopo se coincide, ciao, buona farmacia. Ciao. Mi sembrava avere un fischio. Sì, poccate ce l'avete. Stiamo dicendo una Siberia, ho fatto un piccolo anno, tra virgolette, perché è un po' distratto, sai qua, ho fatto un ritorno della radiofrequenza e mi ha crepato, che si chiama, non mi ricordo mai i nomi, cazzo, sembrano delle lenticchie. Resistenza. Bravo. Mi ha crepato una resistenza, quindi le abbiamo cambiate, le abbiamo messe tutti e tre nuove, poi il... un'altra resistenza appena più grande, però secondo me si è andato un pochino la cosa principale, che i watt se ne sono andati. Sì, purtroppo fu tutto quello, che perché a manetta forse da neanche 20 watt. Allora sono andati via i finali. O qualcuno che è andato in perdita. Ho provato a quelle resistenze lì a mettergliele in ceramica. In genere si mettono in ceramica che resistono di più, capito? Qualche sbaglio, a volte li entri con qualcosina in più di watt e con le resistenze in ceramica resistono un po' di più. Proprio a vedere che sbaldinata ha preso quello. No, quello andava benissimo perché ce l'avevo attaccato al 48 e spingeva quanto il 747, essendo anche più piccolo, è dato per 100 watt, ma fai che te ne dà tra 70-80, andava benissimo, solo che non riesco a, deve essere che è partito la cosa, non riesco a farlo andare oltre i 30, e non so se ne vado appena a comprarlo. Voglio guardare, cosa sono i finali? 4-5-5? Non te lo so dire, infatti ho detto al limite compriamo i finali, gli cambiamo il finale e ciccia, si avvi le luci, o li mettiamo lo stesso, perché dovrebbe avere lo stesso finale del B150. Ma ce ne vogliono due però. Non lo so, non l'ho detto io, così mi hanno detto, così ti sto riferendo. Perché il 747 per esempio ne monta 4, però sono 4 MOSFET, capito? Dipende, io ne ho visto due differenti di 747, entrambi erano differenti all'interno. Beh, basta togliere il coperchietto, se non devi togliere la piastra, li guardi, i finali già si trovano, poi per sostituirli basta poco, capito? Basta metterci la pasta, di saldare uno e mettere l'altro, non c'è problema. Sì, quello sì, già, è facile. No, mi chiedevo sa poco quanto mi va a costare il finale, perché se il finale viene, per dire, che ne so, 30 euro, un gira gira conviene comprarlo già a 40-45, lo trovi già fatto, diciamo. Dipende, se non sai che finale c'è, come fai a sapere quanto costa? Se no che guardi la scheda tecnica, se la trovi. Lo so, infatti la sto guardando, non riesco a trovare un cacchio. Prova a scrivere il modello del lineare e che finale monta. Già provato, via. Ah, scusa, a togliere un coperchietto da sotto, sono due vitine, mi devi sfilarlo e ne esce. E ce l'hai davanti il finale, e guardi che cosa è. Per me monta i 455, per me. No, non ce l'ho qua adesso, ho portato in mano, l'ho dato Antonio, lo sta chiamando lui, perché l'ha trovato a casa sua e quando l'ha attaccato, diciamo che ha aumentato appena appena, non gli ha amplificato, ha fatto una bella radio, proprio come potenza non le stava erogando. E con quanto ci sei entrato dentro? Tutti. E lo sai, purtroppo è così. Purtroppo è così, quando quelli già lo sai, ci deve entrare con pochi watt, se no un macello. Non è una cosa un po' robusta che tiene, mi capito? Chi somiglia al gol per buon watt. Può darsi pure che stai andando con uno solo, poi bisogna vedere. Adesso non mi ricordo quel modello lì, se ne monta uno o due, capito? C'ho questo dubbio. No, vabbè, tu puoi entrare da uno fino a massimo 10 watt, ma non mi sono ricordato di abbassare un pomello e me ne sono ricordato che era troppo tardi. Quando ho sentito ho detto io, cazzo, porca puttana. Ah, proprio si è inzittito. Ha fatto il ticchettio, vabbè. Perché guarda, secondo me è destinato questo qui a arrivare lì a casa tua, secondo me. Guarda, diciamo la verità che se avessi avuto quattrini non avrei esitato a prenderlo, ma a me non piace a prendere cose se non a pagherlo, non mi piace. Quando ci sono moneta suonante è un conto. Anche io sono così, ti metto da parte quando ho la cosa in mano, parlo, capito? Perché sono tante le cose che mi piacciono anche a me. A me piace il guru. Sempre il solito caffone, ma Luccato, ma io spegno il baracchino. A me la patata. Siete frutti e venduli voi, Sì, a parte i finocchi, il resto mi piace tutto. Buonasera. Allora, quello che ho io, 747 Massimiliano, che mi avevi fatto avere tu, a due finali, che io avevo controllato, l'avevo aperto a vedere come l'ha fatto dentro, perché non sapevo manco come l'ha fatto. Monta due finali, però io non ci vedo a vedere qual è, ma mi sembra che mi avevi detto che erano i 455. Però quello che c'ha lui è diverso, non è un 747, capito, Cla? Di 747 ce ne sono due modelli, ce ne sono uno che monta due finali MOSFET e un altro che monta quattro finali MOSFET, da 25 watt l'uno dovrebbe essere. Adesso però quello che c'ha lui è diverso, non so che se ne monta uno da 75 watt o uno da 50 watt o due da 50, non lo so com'è, capito? Quindi per vedere quanto costa un finale. Ma Tino, ti dico già, se monta un 455 tu sei già oltre le 30-40 euro, chissà poco ma è sicuro. Allora non conviene più, figurati. Senti un po', Walter, Claudio, com'è questa modulazione? Ti piace? Non mi risponde neanche. Magari sono andato in bagno, capito? Sì, infatti avevo fatto questa considerazione qua, Massimiliano, perché se costa così non conviene neanche ripararlo. Che cosa ti pensi? Che i finali di qualcosa costano 10 euro? O dove più no? Sai cosa mi è successo a me? A me qua, in queste S9, adesso te lo dico così al volo, c'era anche Claudio qua presente, stavamo lavorando nel piano di giù, è sceso un fulmine, non vicino, un po' lontano, e mi ha bruciato i finali di questa radio e i finali di un lineare. Allora, io questi finali qua ne monta tre MOSFET, ok, questo qua, questo S9, questo modello qui, li ho comprati da Napoli, li ho pagati 12 euro l'uno, li ho fatti arrivare, li ho montati e erano cinesi, non davano potenza. Vabbè, da Napoli, però anche tu, cacchio, fatti una domanda e date una risposta. E cosa vento? A chi? Dall'altro di Brughi, non so cinesi romantesi. L'ho mandato a Siracusa, dove c'è il mio dottore, gli ha messo i finali che ci doveva mettere, ho speso 80 euro. E vedi un po'. Vabbè, però ti ho detto, fatto la domanda e dato una risposta. Tu hai speso 80 euro per metterti dal tuo dottore, più quelli che hai speso da Napoli, quanto sei venuto verso questo finale qua? Lo so, però io ho detto, se sono i finali me li compro, mio cognato me li ha cambiati, l'ha provata e dava 2 watt. Ho visto, stava andando solo col prefinale e neanche pure, proprio quasi niente. Quindi vedi bene, vabbè, ma non è perché è Napoli, se l'avrei comprato a Foggia, se l'avrei comprato di Borsudì, a Milano, era stata la stessa cosa, perché devi comprare quelli che ci vogliono, capito? E di un linearetto così, alla fine, con 50 euro di biglio 747, anzi, non lo so se lo trovi neanche a 50 euro, sarà intorno ai 70 euro adesso, un 747. Già fatto, già trovato, già acquistato. La settimana scorsa. Vabbè, non so se è la mia radio, poi te lo dirà anche Claudio se è in frequenza. Hai una leggera, come te lo posso dire? Nel finale un po' di rumore di lamiera, abbassa appena aperto. Rumore di lamiera? Prova. Io il rumore di lamiera non intendo. Tin tin tin tin. Adesso vabbè, forse no. O perché stavi parlando troppo vicino. Claudio, senti qualcosa tu? No, adesso no, adesso no. Che parito, non è mancata la Luzzi? Sei già per lui che attacca lineare. Adesso dice, no, mi ha attaccato il lineare, no. Non ha più bisogno di attaccare lineare. Ma mollato così di punta in bianco, o l'hanno chiamato al telefono, magari, non lo saci. No, adesso già va bene. Cazzo, sentivo, din, din, din, din, finale, capito, cosa è? Adesso provo quel microfono dell'87 su questa radio, ci vedo come va. Scusate che ho il telefono, cosa stavi dicendo? Ho detto, ti piace questa radio, cosa ti sembra? Ti ho già sentito. A me di quella radio piace l'estetica ma non il colore. Vabbè, no, lascia perdere, a me piace il frontale e non il colore, però il frontale mi piace. Ma nel tutto l'insieme, diciamo, la modulazione com'è? Buona, sempre simile alla RAN 48, simile alle altre radio che ha, il microfono è sempre ghisciome, non è che c'è un bassino, la tua voce è quella. Questo cos'è? L'LMS 200? No, quello non sono riuscito a farlo andare. Quello ho qualche cosa che non va. No, questa è la Fayette, modello base, Tesla SSB 140. E io guardo quello che aveva Massimiliano che ha venduto a Giuseppe, quello lì. Sì, bella, mi piace una radio, è bella. Sì, l'unica cagata che hanno fatto lo spinotto a strappo anziché a ghiera. No, assolutamente, questo è a ghiera. Allora l'hanno modificato, perché originale è a strappo. Confermo. Ma questo sì, la modifica ce l'ha, qualche modifica ce l'ha, perché questa è diventata a 220 e poi a FM. Quella radio sono tutte a 220, anzi sono anche a 13,8. Non è stata modificata, esce a 220 quella radio, Tino. E in più la mia aveva 120 canali. Però non aveva l'FM, perché è una radio americana quella. Invece da te gli hanno messo la scheda FM. No, allora, questa esce a 13,8 ed è stata modificata a 220. Ehi, cazzo, è stata modificata, hai detto bene. Originale, quella radio è base a 220 più anche la connessione a 13,8 e ha il connettore a strappo originale, quella che aveva Massimiliano, l'ho vista io, l'ho venduta io a Giuseppe per conto di Massimiliano ed era originale, ok, 220 più aveva il connettore per i 13,8. 13,5 volts senza nessuna modifica, NATA 220 col trasformatore dentro e il connettore è a strappo, evidentemente quella l'hanno modificata. Questo lo ignoro, così mi hanno detto, è così ti sto dicendo. Ora, aspetta un attimino, dimmi se cambia qualcosa. Ora, sta passando la radio, vero? Sì. Ora. E così? Ha migliorato? Così è come la prima. Sì, no. Vediamo, ci vediamo. Guarda lì la volta se te la regala, questa è la radio migliore che c'è in assoluto, esce benissimo. No, regalo non vedo niente io, lui già, me l'ha già regalato, quindi non chiedo niente, no. Io, cioè, a me piace utilizzarle, farle andare, se ha qualche doppione magari, ma se non ne ha non c'è problema. Allora, quella che aveva tu, Massimiliano, mi pare che era il Lafayette Telsat SSB 50. No, 140. SSB 140, allora quella che avevo io era l'SSB 50. Ok, che ho dato a Marco. Marco ne ha dato due, di cui una ha un Zodiac base 50-24. Ok, ed esce migliore del Ruiz. Non manca paragone. Addirittura. Sì, bella. Manco a paragone. Questa, se non me lo dicevi, siccome ti stavo ascoltando da prima, se non me lo dicevi pensavo fosse 4,40. Esce veramente bene. Addirittura, caspita, bella, bella. No, vabbè, poi a me piace com'è, perché è bella massiccia e sto qua, però per usarla, per utilizzarla. Ah, mi sembra da 5 a quasi 10 watt, non so quanto sto arrivando lì, però il picco di modulazione mi dà 5 watt e quando il picco massimo 9-10, non di più. Il segnale è uguale a quello del President, ok, del Lincoln, però la radio è superiore nettamente sia al President, sia al Royce, sia si assomiglia un po' alla RAM 48, ma mi sembra più corposa, no Massimiliano? Più bella, molto più bella, infatti cosa gli ho detto poco fa, questa è la radio migliore che c'ha, ma poi in ricezione che è molto bella, capito, ascolti proprio bene, colonnina frontale. No, ho messo io invece il microfono nell'S9, l'ho messo sull'AMO International, se non ho messo il microfono AMO International, com'è? Va bene, però quello dell'altro che usi, la modulazione ha leggermente tonalità più alte, questa è un po' più smorzata, ma è bella lo stesso. Va, era giusto una prova che io volevo fare. Vabbè, la giovata è tendino, tanta gente, anzi, la giovata è tendino. Vabbè. Ve l'ho detto qua, allora, a mio piacere la radio lascia il tempo che trova, nel senso che preferisco più altre tipologie di radio, però con la radio è bellissima, mi piace. Esteticamente è molto bella, c'ha quella cromatura, quel colore particolare, quegli accorgimenti, c'è un bello smitter, no è bella, colonnina frontale, molto bella. Io ho avuto il Telsat SSB 50 però, capito, SSB 50, il Zodiac base lo stesso, 50-24 che ho dato a Marco, quello celeste, quello ho dato a Marco, poi vabbè ne ho avuto altri eccetera, però quello mi piaceva anche perché esteticamente è molto bella, ma poi soprattutto c'è una bellissima ricezione, capito, no, una bellissima ricezione. Sì, però io stavo parlando, a prescindere di quello che hai detto, che sono d'accordo con te, stavo parlando della radio che mi ha fatto sentire Massimiliano poc'anzi, che effettivamente come radio a mio piacere non mi garba tanto, però le modifiche e la modulazione che gli ha fatto fare è una radio spettacolare. Tanto ti l'ho provata io, quella 87, quando lui stava facendo lavoro ce l'avevo tutte qua io le radio, gli ho detto 87 è favoloso, io l'ho provato a tutte le parti, poi la bellezza di quella radio è che non ha niente di particolare, no? Oh, c'è un tastino dove c'è scritto ecco on off, tu digerisci quello, le attacchi le MV più 5 e lì sta andando e va bene, perlomeno con me viaggia benissimo quella radio, la grande, ma soprattutto quando tu l'attivi colte, c'è una potenza micidiale, una modulazione favolosa, capito? Anche se magari non può piacere come estetica di radio, però le modifiche che ha sono state fatte veramente bene, è costoso eppure, perché a modificare quelle radio ci vogliono dai 200 ai 250 euro, quindi è una bella radio quella, solo Massimiliano va bene, altre, quella la vuole dare, però chi la compra, ti ripeto, fa un affare, non so quanto la stia dando, però fa un affare perché io l'ho provata ed è una bella radio. Va bene, non ho capito. Massimiliano, facciamo una cosa, io questa qua, va, li metti i pomelli, li metti all'interno di quella radio e me lo ritorni così, bene qua. Sì, va bene, aspetta che ho sentito un break sotto. Avanti un break. Ma sei contento? In diretta di YouTube. Stai zitto, sta parlando. Ok, dai, anche tu arrivi al limite dalla Romania, Buonasera, qua sì, nell'isola Sarda, capito? Provincia di Sassari. Ma con mia sorella stai parlando? Fammi bene, Nemuto. Daniele. Positivo, dai, ciao Daniele, sud-est della Romania, io ti ascolto, dai. Il Santiago è 2-3 oscillante, la radio è molto bassa. Comunque ti saluto, ciao Daniele. Ciao Daniele, non so se ascolti anche a me, Tino Muscolo, con la buonasera. Chiappa positivo, dai, non so se ti ascolta l'amico Claudio, te lo mando. 7351 da parte mia, un abbraccio, ciao Daniele, vai Claudio. Aspetta, nessuno io. Arrivava basso anche qua, L'ultimo passaggio era Santiago 5, poi si è abbassata a 1. Era questo Daniele dalla sud-est della Romania, qua. Non ci arriva qua, né sud-est né nord-ovest. Che brutto che è. Sud-est, sud-est. Cazzo, sì, una montagna di 40 metri, buh. Cioè, se noi siamo a livello del mare, ma te ne rendi conto? Io sono a livello di Braghetta, blu. Sì, forse appena più basso di me, ma non di tanto, Io sono in basso io, sembra così, ma è basso qua. Voi siete a livello agli olio tutti e due. È stato là che ho parlato della Romania, è tu nuda, hai compreso? Vabbè, io vado via a Roma, no, che è più vicino. Per quello, Cazzo, Romania e Finlandia. Quindi, ricapitolando, cioè non riuscite a mettervi d'accordo con questa L87, che porca miseria, quello è un affare, tia. Ma allora tu a me non mi ascolti, io gli ho detto a Massimiliano, un brutto, mezzo demolito, lui me lo aggiusta, tutto quanto mi mette quello che c'è, toglie l'interno di questo brutto e mi mette l'interno di quello là dentro, va bene così, per me io ci sto. Ecco. Massimiliano, vedare lo brutto, registrato il becco. Massimiliano ce l'ha il Pluto, è bello pure, e se no vi c'è Typhoon 2 che ha venduto, spettacolare, unia radio, chissà, è una bomba veramente. Avanti Antonio. Antonio chi? Non sono Antonio, no? E chi sei? Giovannino Bingo Bongo. Se ti abbassi te la pongo. Vi informo che sono dei bambini, se non parlate bene vi schiaccio la portata. Scusa Tino, lo sai che sono maleducato io, ma questo Antonio Rode ogni tanto metto lì un nome strano. A proposito Massimiliano, ma è entrato Giancarlo dalla corte? Oh, l'ho sentito oggi, boh. Mazzone, cosa stai facendo? Ascoltandovi tutta la sera, ciao Tino, ciao Massimiliano, se mi ascolti non lo so. Buonasera a tutti quanti. E tutta la sera chi? A loro, io sono stato adesso in giro, stavamo tagliando un po' di alberi, Massimiliano, roba di legno, almeno caso, fui. Domani è festa, giovedì c'è il camion, se si bussa tutti. 4 alberi di pino mi hanno tolto. Sono arricchiati, ma minchia. Ma io non lo sento, che è l'amico? Saluto. Non arriva a te, Antonio Grobe, col portatile. Antonio, prova a parlare, ciao. No, ma questo che è Massimiliano, guarda un po', hola. No, scusa, ciao, no, già ti sento, avevo il microfono chiuso. Figurati, Massimiliano. Se no, quello della Maria non lo sentivo. Ma anche a me mi arriva a basso. Ciao Antonio, buonasera e ben ascoltato dopo la marea. A me mi arriva Santiago 4, va. E vabbè, comunque, non c'è QRM, già non riesco a tirarlo fuori. Ma dai, ma infatti rimango in ascolto proprio per non creare difficoltà. Vi ascolto tutti quanti a bomba. Dai, riprenditi là. Vabbè, puoi anche rimanere e chiacchierare. Se non c'è QRM, tranquillo che arrivi anche qua, eh. Sono qua, ogni tanto intervengo, dai. Riprendi Claudio. Ehi, avvento 9 qua, dai. Vabbè, non siamo più vicini. 9 radio abbastanza buona. Ok. Ma Giudito, ma ci vediamo, ma noi che era Vicio Giancarlo della Corte, no, Vicio della Romania? No, no, ma che era stato entrato la prima volta un po' più strana, hai detto, boh, lascio il romeno. Anche io l'ho sentito, quello, accendi tutti il giorno che ha chiamato quello dalla Corte, mattina si è raduduto. Non lo giacci. No, scusa un attimino, sto parlando in verticale, riprendi un attimo, la riprendo subito. Ah, ok, ah, ok. Se prendi il gonte, allora mi hai capito, ma lui, cioè, se ha veramente voglia di avere una radio modificata a Colte, un linearettino, caspita, quel lineare che ho provato io qua, quello tuo, 170-180 watt, dava in quinta marcia, piccolo ma sincero quel lineare, porca miseria. A Giovanni da zia canto vice pure il vento, lei. Davvero? Sono ritratto, eh. Ho detto, sì, quell'ideale che c'ha Massimiliano, tu immaginati che io c'ho quello con le vetro qua sopra, no? Che avevo fatto anche la foto. Quindi quello là in quinta marcia dava quanto quello là in quarta praticamente. Alla pari quasi 200 watt da quell'ideale che c'ha Massimiliano, una bestia, è piccolino ma sincero, è un po' più grandetto del 747, ma lo sa quanto pompa. Ma io già lo stavo parlando poc'anzi, io ho provato il 747, no? Sotto strumento, e da 50 watt di portante bianca. Quando mi metto a volare, secondo cosa dici, tocca anche i 100, però va, viaggia tra i 70, 80, a volte 90, ma il picco positivo, il picco massimo fa anche 110 se ti metti a fischiare, ma non è che quando parli non fischino, hai capito? Quindi il 747 va benissimo come lineare, ma anche il suo, solo che ho precisato io che ci sono tante cose che a noi piacciono, ma dal piacere al comprare c'è una piccola differenza. Se non hai moneta suonante in mano, è inutile che stai lì a sognare, a farti le mentali, non potevo dire una parola strana, e niente, quindi parcheggi e metti a casa. Parcheggia bene, aspira il pesce. Bravo. Ehi, sono d'accordissimo con te, non si può fare il passo più lungo della gamba, certamente che sì, però ti ripeto, nel caso dovessi avere disponibilità, non lo sottovalutare quel lineare, perché io l'ho provato ed è veramente molto interessante. Per quanto riguarda il 747, io ce l'ho nuovo, che mi aveva fatto avere Massimiliano, e praticamente con la T230, con 5 watt d'ingresso, 5 watt d'ingresso da 90 watt, 85 modulati 90 watt, non di più, però sono più che sufficienti, io quello l'avevo preso per usare l'Alan 48, poi ho attaccato un giorno l'Alan 48 e me ne è passata la gana, mi ha divulgato l'Alan 48 e il 747, sono tutte e due dentro l'armadio, perché l'Alan 48 a Sassari, perlomeno dove sono io, non si può usare, nel modo più assoluto. Ma adesso tu hai visto, non so se ti sei reso conto, quando stavamo parlando con quello lì, io ho commutato e ho utilizzato il 48, non ho utilizzato questa radio qua. Oh, ricezione dell'Alan 48 è una signora radio, anch'io non sottovaluto la ricezione, la trasmissione di quella radio, ma io un giorno ho attaccato l'Alan 48, sentivo a Gio Maria nel canale 20, dal canale 23, cioè a Buffo Endici. Infatti, adesso poi ti rilancio ormai, che Massimiliano, scusami, ma perché io ce l'ho attaccato? Perché qua, non avendo avvicinato, oppure non essendo in città, ho la possibilità di poterlo utilizzare, perché tu sai benissimo che la mia prima radio è stata questa qua, questa che è immacolata. Quando abitavo in via Marco Polo, alla Pedoce, ma era o parlavi con i più furti oppure dovevi spegnere il baracchino, quindi quella è scomparso. Però essendo qua in campagna, la puoi utilizzare perché non c'è vicinato che ti disturba. Porca miseria, ti ho vicinato, cioè io il mio vicinato è Roberto Quadrato, se dovesse modulare Fabrizio, se modula Antonello Alessio, ma cioè da Lurati Dotti sentivo gli splatter, non forti, ma lo sentivo, me lo portavo appresso quando parlava qualcuno, ho preso e ne l'ho tolto, senza considerare il fatto che un giorno l'ho acceso e non si intendia nulla, era muto, controllavo lo squelch a posto, il volume, tiravo su tutto il volume, nulla, niente, vado a girare la manopola del canale e c'era Antonello sul 23, completamente muta la radio, muta, come che era accesa ma per me era spenta, capito? E quindi l'ho tolto. Quel linearetto però mi è servito sia per il DAC che c'ha pochi watt, sia per la 48, lo posso attaccare all'Elbex che mi ha regalato Massimiliano, nonostante l'Elbex abbia i watt regolabili da 1, da 1 watt sino a 15 watt, capito? Quindi io lo metto a 5 watt e posso attaccarli i 70-80 watt, ma se serve, se no io uso sempre questo. Avanti Massimiliano. Sì, io la stessa cosa, no, io... Vabbè, qui vicino a me c'è Gigi, per esempio sei un po' in propagazione, magari tu sei nel 45, Edward 47, non fa vedi, proprio zero. Poi quando lo usavo normale, quello che c'ha Daniele, per farti capire, quello che c'ha Daniele, lo mettevo qui. Poi ascoltavo a Gianni nel canale 21, perché prima eravamo al canale 21, della Metecla. E ascoltavo Gianni nel canale 21, a Claudio, non faceva, cioè abbattimento proprio, si portava lo smitter completamente a zero, abbattimento. Sì, l'ho fatto anche a me quando ero lì a Teroce, qua magari non lo so, non ho riscontrato questo affatto perché siamo quattro gatti, però magari può anche succedere che qua da queste parti, figurati, però quando è capitato come adesso che c'è qualche dolore in lontananza, ho utilizzato quello perché il 74 è attaccato, non per altro, l'altro l'ho eliminato, capito? Adesso io se riesco a dare il valvolare per pochi spiccioli magari poi lo prendo, non lo so, vediamo, devo fare prima una cosa per l'altra. Buonasera a tutti. Eia. Ciao Gianni Lobroffè. Buonasera. Sì, c'è qua la Roma, non ti preoccupare, quando sei pronto, già in occhi, problemi non ce ne sono. Vabbè già, come vai questa assenza? Con la febbre lì? Insomma, non sono in pienissima forma in questi giorni, là. Quindi sono, di conseguenza, sono un po' abbaccato e quindi poca voglia. Però insomma, tanto ne usciremo fuori, dai. Ciao Gianni, questo smitter o è generoso o sei più forte di tu, 9-10. Caspita, va bene, ben sentito Tino, Massimiliano, ciao Claudio, buonasera. Ciao Gian, buonasera, sì, 9, quasi 20 sei qua. Se sempre andando e attendi, forse a pigliare due Eva che se antenna si è caricata un po', l'ultimo segnale, vai Massimiliano. Sì, qua è quasi 9-5. Va bene, e anzi per l'antenna che lui è in una buona posizione, ottima radio, bella, chiara, amplificata, va bene. Sì, e vabbè, anche se avevi la febbre accendere la radio già non costa niente, ma già state facendo le orecchie di maiale, vero? Alecce di buco, così è. Ti ha giudito Alecce di buco, ma lo dite Alecce Bilusi. No, vabbè, ho acceso poco fa, ho sentito, stavate parlando di Lafayette, ho acceso poco fa, non da tantissimo. E niente, io forse da tanto sono un grande fan della Lafayette. Davvero? E allora fatti la stazione della Lafayette. E adesso non è cosa. Adesso mettiamo a posto la stazione umana, poi mettiamo a posto la stazione radio. Perfettamente ragione. Prima il dovere e poi il piacere. Avanti. Non fare come sto facendo io, però. Io quando avevo 10 anni ero già nel pirata Kimbo, e adesso che ho per 10 anni di infermeria, no? Sono un ragazzino. E adesso che ho un'età un po' avanzata sto andando con i veicolari. Ma più belli sono. Sai cos'è, Massimiliano? Magari torna indietro nel tempo, capito? È bello ogni tanto avere. Cioè a me, allora io ne ho tanta di roba, ma veramente tanta per farti capire. Mi piacerebbe a me avere un bel angolo, una bella scrivania, avere ognuno col suo microfono, cioè anche se è roba adattata, no? Ma è sempre bello avere una bella stazione radio, cioè perlomeno io, se avessi avuto per esempio una stanza tipo quella di Claudio, io me li avrei tutti messi in linea così, con la sua staffa, il suo microfono, il suo cavetto. Mi piace la stazione, no? Invece sono così andato dentro l'armadio io. Allora facciamo una cosa, compro 300 blocchetti e iniziamo. No, basta quei blocchetti, e che tanto sono vicino, quindi. La stazione del 300 l'ha comprato. per come dire, 300 blocchetti per iniziare, scusa No, ma lui solo per fare la modifica, se che 300 l'ha pigliato, e te lo posso garantire. Perché c'ero anche io lì, e ne ha messo parecchi blocchetti. Sì, ho capito, ma era giusto un'istigazione per poter riuscire a creare una stanza. Ma io ce l'ho anche un angolino, capito, però un naso di bovizzo con poche parole, convincendo mia moglie a togliere un divano da quest'angolo, capito? Se io mi dovessi mettere in quest'angolo qua, so che arrivido. E un'altra cosa che devo fare è andare di bugare le luci della camera di mia figlia, che ho preso quei faretti a LED. Ma guardati, una cosa impressionante. Allora, siccome i faretti funzionano con un piccolo trasformatore all'interno, no, che trasforma da 220 a 18 watt, quando io accendo, io sono in un salotto, e di fronte c'ho la camera di mia figlia, quando io accendo la luce della camera di mia figlia, io non posso più farmi da baracchino, mi sale la lancetta a 9,20. Perché sono i trasformatori quelli. Vero? Quello è no. Vanno a disturbare. Ma io non sento a nessuno, cioè devo sentire oltre 9,20, se no non ascolto più nessuno. Elimina, e poi mi un consiglio, quel divano, anziché quel cazzo, tu inizi a appoggiarci roba di radio sopra, così dice, guarda che c'è a fuoco là lì, Ha già cominciato gli angoli botte di travaglio. Questa stanza, Massimiliano, è costata 70.000 euro, ormai questa stanza in più, a cui io sacco a bisogno. Vabbè, cosa c'entra, cra, però avere il tuo spazio, capito? A posto di stare così dentro, mettere le radio tutte dentro l'armadio, a chi non li deve vedere in giro, non è che mi piaccia molto, capito? Invece a me le radio mi piacciono in vista, vederle, sedermi, mi reventare la sedia sotto, cazzo, ma come ti dico io, bello me. Oh, cla, a te dico una cosa, allora io, tu sai benissimo la mia casa com'è fatta, no? Dove avevo prima la stazione io, che praticamente è una cameretta, la stazione l'ho tolta e l'ho messa in salone. Perché? Perché ho detto, cacchio, mi chiudo in questa camera, lei rimane da sola, il bambino rimane da solo, e mi sono trasferito in salone. Tornando indietro, non lo so se lo rifarei, ma non per altro, perché quando ti metti a volare, lo sai benissimo che se c'è silenzio trasmetti meglio, ascolti meglio, da quanto, però ti stai un po' chiudendo in te stesso. Io la penso così, e quindi ho detto, la franciccia, ragazzi, lo metto in salone, così almeno un po' il computer, un po' la radio, un po' i bambini, e quant'altro, sto in mezzo, non sto buttato da una parte, però oggi mi viene voglia di farmi un angolo, tutto per me, anche magari è più piccolo di quello che avevo prima, Ma io non sono isolato, io sono tutto aperto, vabbè qua bambino ce n'è. Io non mi chiudo mai, Massimiliano, cioè, la porta è sempre aperta, vedo la televisione del salone, vedo Anna seduta nel divano, cioè non sono isolato. Se poi è chiaro, c'è gente, oppure a volte viene Massimiliano, chiudo la porta e ce ne stiamo qua dentro, assolutamente. Ma se tu ti ricordi quando ero a nono piano, non so se ti ricordi, prima avevo le radio nella cameretta di Daria, quando è nata Daria io mi sono fatto, c'era una risega, c'era stata un metro all'interno, neanche. anche a 90 cm all'interno. Io ho fatto fare i piani, le mensole alte con le cassettiere sotto, lì mi ho realizzato la stazione. Per far passare i cavi addirittura avevo bucato il tramezzo sotto a terra, siccome c'era il piano della scrivania non si vedeva, avevo fatto passare i cavi lì dalla cameretta, perché era proprio nel corridoio, se ti ricordi. Capito? Però per poter fare determinate cose ci vuole spazio. Io questa stanza ce l'ho perché questa c'è tre stanze a letto, dove ero prima ne aveva due, e mi avevo costruito quest'angolo come stai dicendo tu, però era abbastanza carino. Certo che ero sempre in mezzo alle balle, però andava bene, capito? Però è così, spazio ci vuole per la radio, Massimiliano, venuto alla... Tu lo spazio ce l'hai perché la tua casa è bellissima. Lo spazio c'è, perché quell'angolo all'uscita della camera da letto tua, quell'angolo dove, per capire a me, ma tu lo sai di cosa sto parlando, dove c'è la televisione prima, è tutta una marea, una montagna di pupazzi, quella è spettacolare, quell'angolo lì è spettacolare, sai cosa è spettacolare? Spettacolare proprio, perché lì basta una base, è tutto bene, in ordine, come sai fare tu, quella è spettacolare. No, adesso prendiamo il blocchetto e ci avvolgiamo, così almeno faccio anche sulla stanza, ma lascia perdere. Ok, salvi ogni tanto, faccio un po' così, come un connettore che tocca e non tocca, ogni tanto. Non sono abituato, non lo so. Lo sentite? Sì, appena l'ho sentito, ci ho fatto caso ora perché ho alzato il volume, se non ho alzato il volume non lo sento, perché quando stavo parlando quello l'ho abbassato, stavo ascoltando tranquillamente, quindi quel rumorino non l'ho sentito, però ha ragione. Meglio non so cos'è, ho messo a fianco la T230, adesso l'ho risposto. Ah, ecco. L'ha fatto un po' di volte, va. Avanti già, tu dove ce l'hai sopra la sedia alla stazione? No, è su una piccola scrivania vicino al monitor del computer. Apro parentesi, comunque il rumore da falso contatto l'ho sentito anch'io, Ma lo sai dove stavo modulando io fino a 20 giorni fa, avanti ti buon arrivi. Il cavo era di mia figlia, perché ancora non avevo spostato il cavo dell'antenna, e modulavo sopra lo sgabello, e io ero seduto sopra di quelle sedie che si usa alla scuola, di tavola. Già ti avevo sentito un paio di volte che, non dico che ti lamentavi, però insomma, hai fatto notare che insomma che la tua sistemazione era alquanto precaria. Però adesso ne devo togliere per forza questi fari dalla camera di mia figlia. No, è impossibile, guarda, no. Cioè, se adesso loro, vabbè, non ci sono perché la mia figlia è a ballo. Ma se dovesse rientrare e se ne va in camera sua, si accende la luce, ha già finito di farmi dare un baracchino. Scusa, Massimiliano, io sento anche da te appena di innesco, leggero, altro. Guarda. 1, 2, 3, prova la radio. Guarda, beh. No, adesso no. Sì, forse magari come mi avvicino troppo alla radio, mi va. Questo senti? Appena, ma in lontananza, non te l'ho voluto dire perché magari ho alzato troppo il make game. No, io no. Allora io quando accendo le radio, no? Che mi faccio le prove, le faccio con voi, quando mi dite voi la radio è perfetta, ma io più o meno ormai so tutte le posizioni dove esco bene, non tocco più nulla, non sto lì a aumentare, a abbassare niente, ecco, quella è la mia posizione. È questa perché non ho fatto così, quando mi siete detto va bene, non ho fatto altro, ma non questa l'ho preso così, già va bene. Gappa, va bene, va. E quindi già, cosa ci racconti di bello? Com'è in quelle coordinate? A ribasso, nei treni, già. Aspetta che c'è uno sotto che sta chiamando. C'è uno sotto che sta chiamando. Prendi adesso, tu devi. Lupo Grigio, vieni avanti, canale 10, buonasera. Oddio, fra un po' ce ne andiamo al 45, si apre la propagazione adesso. Lo so, ma non ce l'ho. Ho dato quello lì, è il valvolare, per verificare una cosa. Adesso sono l'auto, è normale, modulazione normale, quello è il 48. Capito, te l'ho detto io che... Lo so, infatti io perché voglio armare questo, ma ancora tu non hai capito, Io voglio armare il tutto per quello. Arma! che voglio che abbaia, hai capito? Questo è un brutto che lo abbaia, è mezzo morto, anzi è morto. Ragazzi, ma lo sentivate mai il lupo grigio? E io, a me mi stava arrivando Santiago 5/6, voi? No, no, qui era legato il cane, capito? Era dentro la buccia. E con la massa, e le orecchie basse spesso. Vediamo un po'. Ora, sta facendo ancora? No, adesso no, qua. Una volta che avvicino la T230, anche quello, vedi, sai che cos'è? C'è la luce a LED, c'è la luce a LED nello strumento, e mi crea quei problemi. Vedi, anche io qua in questo strumento la luce la devo staccare per forza, se no mi fa quel problema là. Ma ti crea il problema nella radio, bravo. Allora, è perché c'è l'antenna attaccata lì. C'è l'antenna attaccata, no? Il commutatore da T230 e il rosmetro wattimetro commutatore accordatore d'antenna di linea. E c'è la lucetta dello smitter a LED. A LED. Quando io l'avvicino molto alla radio, fa quelle scariche, capito? Ah, no, perché io nella radio ho messo quella bianca stesso, ghiaccio, che la sua gialla, lo sai che non è che illuminare anche. No, questa non è luce gialla, è luce arancione. Aspetta, mi sta chiamando anche. Se volevo dire, ma ce n'è di antennine di portatile un po' più lunghe di 20 cm, sì. Ma per dove però? Per il mio portatile, CB. Ma CB normale? In che senso CB normale? Cioè, stai parlando di Baufen oppure CBCB? Oh, CBCB. Ah, blu, 20 cm, a me ne vai. Volete cosa ne fai? Ho detto se esiste a comprarla una più lunga. Sì, ci sono, scusati, sì, ci sono, guarda, le ho viste io in giro anche, mi sembra, su eBay, Massimiliano, con l'attacco BNC per i baracchini portatili. Sì, anche la mia è così, con l'attacco così, ma io già ho anche le adattature, per quello il problema non ce n'è, capito? No, perché ho fatto una prova ieri da dentro casa, da dove sono adesso, per esempio, a casa di Claudio, Santiago 1 arrivo, capito? Come io, a proposito, io ho visto su Facebook che stavi cercando il portatile, io c'ho ancora qua un Alan 38 funzionante, però non ti ho scritto perché addirittura non so ancora, insomma, se lo tengo o meno, quindi non ti ho detto niente. Ecco, capito. Guarda la foto, quello centrale è il coso, è il CB, fa da 25 a 30. Cosa? Ah, sì, no, è bellino, è che, vabbè, a me, portatili così, usarli con l'antenna portatili sua va bene, però attaccarli antenna esterna non è venuta. E l'antenna esterna devo mettere l'attacco, che ce l'ho qua davanti a me l'attacco, capito? E momentaneamente per se devo chiacchierare con quello devo attaccare un'antenna di macchina, ma a me va di là. Potrei attaccare anche l'antenna qua del coso, vedi? L'antenna grande, c'è che lo provo anzi adesso, voglio togliere questo sfizio. Sarà bene, no, io ho un Baufen così per ascolto, con l'antenna esterna, ma sinceramente è sempre più spento che acceso. Baufen, no, io c'ho il Voxon, anche Massimiliano c'ho il Voxon, Baufen è quello tuo Massimiliano, c'ho un Voxon, qualcosa c'ho io. Va bene. No, io ne ho due digitali, due analogici portati, ma sono amatoriali però. Poi il PMR ascolto con la radio grande, me la fottuta. Vabbè che c'entro poco, quindi. Ma era giusto la partenza, che l'ho preso e poi guarda l'altro mi serve per un'altra cosa, però. Il Baufen, era giusto la partenza, l'ho preso così, ma non sto neanche più accendendo. No, me la fottuta. Non mi interessa, io vabbè lo sai, no? Come ce li ho. Vuoi un base, quindi si è memorizzata anche quella, quando voglio ascoltare, giro e ascolto, ma Daniel Broffetta, ditemi se fa sempre quel rumore, se non lo fa più vuol dire che è quello lì il problema, perché me l'ha già fatto un'altra volta. No, qua è tutto a posto, ma stai usando il 43 o il 44? No, 44 gatti. KK, no, forse mi ha tradito il fatto che quando stava facendo quelle piccole scariche, no? Forse mi ha ingannato quello, sta a vedere che magari ha cambiato apparecchio, quindi ho pensato che stessi usando qualcos'altro. Guarda a vedere. Cosa? Guarda, questo è il portatilino. Sul Santiago 9, sì. Sì, vabbè, attaccato con la mantova però, eh. E 9,5, no, più di 9, sì, comunque. Questo è 4 watt così. Giusti, giusti, giusti. Qua Santiago 9,5, va bene, guarda, è normale, giustamente, però va bene, va bene. E quanto metti arriva? Anche a me quasi 9,5. E cosa mettendo? Ho portato lì, 4 watt. Va bene, meglio di niente. Qua sei oscillante tra i 9,10 e i 9,20, c'è la lancetta che, insomma, che balla tra i 10 e i 20. Addirittura 9,20, giù Maria. Ho detto che oscilla tra i 9,10 e i 9,20. Va bene, no, vedi, funziona anche questo. In FM lo possiamo provare se funziona. Perché non puoi provare? Aspetta che cambio. Yeah. Buongiorno Massimiliano. Guarda a vedere, Claudio, mi ascolti? Questo è in FM, prova. 9,60, radio 5. Addirittura 9,60, un watt c'ha in FM. Fono scala, sì. Vabbè, come mi senti? Eia, 9,30. Allora, va bene. KK, allora, ok, va bene. Passiamo qua che Gianni non ce l'ha l'FM. Ok, va bene. Quindi quel rumore non lo sta facendo più, dai. E quella è la lucetta lì. Se accendo la luce lo dovrà fare. Va bene, va. Come il mio, visto qua, il danno. Metto la luce e non posso fare il danno a questo rumore. Lo so. È un casino queste luci a... No, questo è praticamente così. La luce è arancione, è un led arancione, così. C'è l'interruttore dietro che si accende e si spegne, è come il tuo, come uno strumento così. Però avevo notato una volta che me l'ha fatto, adesso involontariamente, siccome stavo facendo le modifiche, spostamenti dei radio, eccetera, l'ho rimesso a fianco al 440 e l'ho dovuto rimettere sopra, perché se no fa quel rumore, capito? Vabbè, non è nulla, via si buffa. Tino si è spostato, io ti sento, segnale 1. Cosa Massimiliano? Gianni, non lo senti a Massimiliano? No, zero proprio, zero. Tu cioè gli dai 9,20 più alto di me e poi non lo senti quando con l'antennino in gomma. Qua arriva con l'antennino in gomma, segnale 1. No, claro, non lo sento, proprio zero. Che strano, che strano. Ehi, Massimiliano, attacca l'antenna, ma no, mi sei... Maggio di buio, un gabbo è nata la colonnina. Vabbè, io ti sento, ma non fare passaggi lunghi, sennò non ce la faccio a seguirti. Mi devo avvicinare alla colonnina per capirti, perché il segnale è molto basso, però riesco a sentirti. No, va bene, no, è una prova, volevo guardare se Gianni mi ascoltava, allora sto qua. Andava bene, dai, hai visto. Già funziona. Tutto per la truppa. No, le stavo chiedendo se c'era magari un antennino, magari un pochino più lungo, capito, magari una quarantina di centimetri. E magari funziona un pochino di più, là. Ma già ci sono, sì. Se vuoi guardare nel sito della Inter, che ci sono le antenne per quella radio lì. Sì, classe, la tengo, già me la comprerò. Che radio è, Massimiliano? Che baracchino è? Un portatile. La marca, si può dire? Sì, un Intec H520 Plus. Fa da 25 mega a 30. Ok, adesso ho capito. Non lo sta facendo più, Massimiliano, quel difetto? A posto? Sì, a posto. Ma il mio duca sono led di merda, Porca miseria. Vabbè, Martino che fine ha fatto? Sparito. Al telefono? Sì, che ne faceva un prestito sicuramente. KK, sei andato a vederlo? Aspetta che ti mando la foto, Rubroffè. Adesso volevo provare a modulare col portatile, vediamo se mi senti tu giù. Prova a vedere, aiuto. sentito la macchina? No, negativo. Qua arrivi, però arriva più forte di te. Segnale 3, oh Gianni, Santiago 3 arrivi. Lo sento al limite, al limite. Sì, con l'antennino anche tu, dentro peso arrivi Santiago 3, vabbè sei più vicino a me però, eh. Massimiliano è più distante, arriva a 1. Però vi sento tutti e due. E quello quanti canali ha già? Quello è, no, ti mando la foto, è un Avan 38, 40 canali, solo in AM. Ha il display con i numeri verdi, poi ha un commutatorino sopra, potenza bassa, potenza alta, lo squelce e il volume, boh. Ho capito, vabbè questo è un po' più serio, va. Guarda, ti ho mandato la foto su MotoZap. Vabbè, è più serio, ma sarà anche più recente. Se la memoria non mi inganna, di che anno è quello lì? Perché l'Avan 38 mi sa che stiamo parlando di fini 80, primi 90, eh. No, questo è molto, molto più recente, sì, a voglia. Gappa, gappa. Guarda, è quello centrale, quei due laterali sono altre cose. Sì, aspetta che recupero il telefono e gli do uno sguardo. Avanti, cra. Esiste che ho sotto la scrivania, la mazza. Ascolta, io mi prendo un attimino un goccettino di acqua, scendo giù e risalgo subito, là. Sì, vai, vai. Un mezzo, Massi. Vai, vai, un attimino che sto staccando un cavo là sotto. Sì, quello centrale è già. Ok. Sì, vabbè. Molto, molto più recente dell'Avan 38, via voglia. Eccomi, ero a Fughendi. Scusate, sono rientrato, avevo una bassa. Ehi, anche io mi sono sceso a beverarmi a tipo pecora. Ma se ti sto mandando la foto del mio. Ehi, adesso guarda. Ehi, un po' anzianotto, ma va bene comunque anche questo, dai. Sì, già se lo fa il tanto suo, l'ho visto su eBay, lo stanno vendendo perché volevo comprarmi un altro tempo fa, l'ho visto su eBay, lo stanno vendendo 60, 70, 40, 50, dipende, quello che ho visto in migliore condizione con la scatola e il libretto di uso manutenzione, cioè l'uso, vabbè, il manuale diciamo, era 60 euro. Questo io l'ho guardato, costa 138. Capito, vai che nuovo nuovo, cioè come che sto scendo al negozio, cioè, addirittura c'è la pellicola anche sul display, libretto manutenzioni, scatola, cavo a 12, cavo attaccare, tutto c'ha, tutto completo. Fate il conto, fa 4 watt in AM, 1 watt in FM, fa 25 MHz fino a 30 e 105 arriva. Caspita, no, già è un bel giocattolino, dai. Per essere piccolino va bene, a voglia. Bene, bene, da. Sì, praticamente stavo guardando una volta su la stessa componentistica, la montava della 38, la montava forse l'Intec o Lafayette, adesso non mi ricordo, la stessa elettronica dell'Avan 38, cambiava un po' la buccia, però la posizione dei comandi, l'attacco dell'antenna e altre cose erano assolutamente uguali. Ho capito, però va a Svegliare, se ti ascolto io, poi mi dici, stiamo parlando poc'anzi del brutto, ce l'hai, ma lo stai dando? Assolutamente no, aspetta un attimo. Ah, pensavo che sì, che sì, è quasi Santiago 5, anzi, per dire la verità, 4 e mezzo, però ti ascolto, la radio giustamente è bassa, però va bene. Ciao. Beh, se considerando che è già dentro casa è già tanto, eh. Lascia il buba, eh. Vabbè, dai, sono giocattolini, io mi ricordo, forse l'ho avuto all'età del mio primo walkie talkie, non so se li hai conosciuti, quelli che erano sul canale 14, ci mettevi un pacco in batterie con l'antenna, quella che si allungava. Forse l'ho avuto all'età di 6 anni, 7 anni. No, io ce l'ho avuto quasi simile, una cosa del genere. Io ce l'ho avuto militare però, capito? Era mimetizzato, mimetico, come lo vuoi chiamare il colore. con l'antenna tipo quella della radio, ci siamo una volta che le attivavi così a tipo binocolo. No, io quelli mi hanno regalati un Natale. Un Natale, boh, vabbè, e con mia sorella ci parlavamo da una parte all'altra, giusto perché eravamo, non so, sto parlando nel 76, ti puoi immaginare. Sì, ma avevo un anno io. Li ho avuto anch'io la coppia, un paio di quei walkie talkie su 14. Che è più grande il tuo Tino, Massimiliano? Tino è più grande, ma non è teso. Che parlava nel 76, cazzo, con la sureta. E io nel 76 mi abitavo con un bimbero, con la sede. Che ti ho detto di che anno sei tu? 75. E Tino, tu di che anno sei? Nel 70. Per quello? Beh, suppongo proprio di sì. Aspettate la buona arriva mio fratello. Lucia. Fratello, era 70, a settembre. E io invece ottobre. Io novembre. E io dicembre. Sono 21 a gennaio. La mia povera mamma. Oh, gennaio. Allora, quindi... Aspetta, ne frego, Massimiliano. Sì, del 75, te ne frego 16 anni. E a Tino invece te ne frego 11. Beh, 16 anni più grande di me. Io ho battuto tutto. Ho già battuto, scegliate a me. Io sono più grande di te. E un mese. Ma sempre più grande. Fece bilancia come mia moglie. Chiara, stesso giorno. Io bilancia. Chi pesa di più, Gianni o Claudio? Chi pesa di più? Non lo so, Gianni è il doppio di me. Siete bilancia. No, vedo bilancia, io sono il scorpione, io lo sai. E punzecchiamo molto. Io e l'aria Daniela, tatta, bumbu. Mamma mia, tu sei scorpione, ascendente scorpione. Io sono un scorpione blu, hai capito? 20 novembre. Ah, buldoso. Cos'è? 20 novembre. Cioè, io peso 105 kg e non mi vergogno a dirlo. Vabbè, cosa c'è? Ma tu già sei alto. Vabbè, tu pungi un me, ma io entro di corna, capito? Anzi, di unicorno, anche io sono capricorno. Vabbè, tra me sei in camera di vostra mamma. Cazzo, 20 kg più di me pesi già, io 85 peso. Cioè, che brutto, ok. 85, ottimo, per la truppa va bene. Metterei la firma, anche a 90. 85, ero 88, sono sceso 3 kg. E va più che bene perché non posso salire più di ma che mi abbiate un bel mangiare B, ma non riesco a camminare, non riesco a camminare proprio, mi si ammucciano i ranchi. Ciao, ti porto a Filippo. Cosa? Ciao, ti porto a Filippo. Ma ci vediamo, mi credi che sto facendo fatica quando porto a Filippo? Perché secondo me ho un'interisciata che non so, mi tira la gamba, mi fa male dietro la schiena, sopra lo sossacco. Non riesco a camminare, non riesco a camminare. Il medico mi ha detto devi scendere, devi scendere. Tre chili sono comparato, di più non più a vostro, io però volta mori di fame. Ah, non mori di fame, già ne hai riserva. Sì, una passata di Nelson ci vuole. Di Scottex. No, da noi c'è uno che si chiama così, no? È nero. Bisogna sarrarsi la bocca. La cosa più bella è mangiare già. Aveva a vostro. No, non frega niente. Io lo vedevo come un appagamento, quando tornavo stanco dal lavoro, eccetera, eccetera. Ribusavo l'unico momento che ci avevo di pace era quando mangiavo, quindi mi sedevo piano piano, mangiavo una cosa, mangiavo l'altra, e da poi ingrussavo. Adesso ho imparato, primo non ne mangio più in tutta la settimana, solo la domenica. E tutta la settimana mangio insalata con la fettina, un pesce, qualche cosa del genere, però sempre senza prima. Se mangio così io cazzo arrivo a 20 kg già. Lo so Massimiliano, però io ho tendenza a ingrassare, capito? C'ho il metabolismo che assimila tutto, anche l'acqua, figurati tu. Acqua ne bevo un bel, acqua anche 2 litri al giorno, 2-3 litri al giorno. Però nel mangiare, lo sai cosa mi piace molto? La frutta. A me mi piace un bel la frutta e la verdura. Sono, guarda come, mangio frutta a tutt'andare, adesso ho limitato anche quella, una frutta e basta, prima me ne mangiavo 2-3 di arancia. Sì, ma se di un pesce ti mangi una balena. Chi era questo qua? Giancarlo mi sembra. Giancarlo, tu sei? Ovidio Ricotta. Chi sei? Ovidio Ricotta. Ovidio Ricotta si chiama Gian. Non lo conosco, buonasera comunque. Ogni tanto ne scappi su un lungo. Cosa è? Anche la riserva, tu? Ma io sono Giovannino Pieno. No, non è Antonio, è Antonio Rode, Grodino è. Giancarlo della corte a me. Il problema, non è, il problema non è che mi mangi un pesce, stavo dicendo. Bisogna vedere che pesce ti mangi, se ti mangi una balena ingrassi lo stesso. No, non ne mangio balena, a me piace il salmone, di brutto. Il salmone me ne mangio due fettine. E l'orata, come pesce, non le mangio balene io. Io magari le pesco ma non le mangio. Poi va saputo anche mangiare il pesce, attenzione, perché la cosa più difficile da mangiare è la testa. Bisogna saperla succhiare, capito? Quella la lascia a te, che la sa succhiare bene. Porcaccione. Ma la testa la lascia a te. Faccio bene a mangiare la carne, Tiro, te l'appoggio. Io, anch'io, salsiccione. Bisogna vedere anche della carne che pezzo ti esce. Tanto, che pesce esce? Bisogna vedere anche della carne che pezzo ti esce, perché a seconda del pezzo è come il pesce. No, ma mi piace la cosa tenera. Mi è sempre da succhiare, Antu. La leccare. Stiamo scadendo, siamo in fascia protetta ancora, Vabbè, dai, salsiccione è la cosa più facile, Tino, Tanto, ma non ti puoi mettere un po' a trinzarti un po' con questa antenna, no? Sono all'interno di casa, devo allungare il cavo, già mi sentirete meglio fra un po', dai. Va bene, che arrivi. E poi, tra quando è tenera, ma scaldata e basta, una girata veloce, conti sino a tre e butti via, non è che... Allora, la cosa più bella c'è se ciò. Non c'è niente da succhiare, tiri lì e ingui subito. Senza spine pure. Allora, basta una girata di cornicione. E si mangia il pesce lo grongo. Allora, fate riprendere a Gianni il Buffetta che redende sotto i mucciazzi. Ma cos'è? Mi fai una boccata alla spina? Oh già, Rucendi, sì. Ehi, buonasera, doppio room. Ciao già. Vabbè. Eravamo tutti preoccupati, non ci stavamo sentendo in questi giorni. Come si dice, ho preso un paio di colpi là, nel senso, diciamo che non sono pienamente in forma, quindi sono in terapia, dai. Già, stava sistemando il cornicione anche lui. Ma veramente, ho Gianni Obloffè, guarda che tutti quanti ero preoccupati veramente, stavo proponendo di fare una colletta per farti una corona, un cuscino. Anche se non si vede mi sto toccando ampiamente, quindi non sarà per adesso, dai. Già mi sono proposto, avevo l'alloro, porto quello. Già, la destinazione era da Rossana, li punti perché prende di meno di tutti. Gianni, dille che ti ha telefonato, però io ti ho telefonato per sapere se eri a posto. Adesso di amburotto, una alla volta, sì, mi ha chiamato a Claudio l'altro giorno. Volevo andare da Rossana, di Punti, che è quella che è più baratta, capito? Ah, domenico vado via 4 novembre. No, la Rossana che è un'amica, la sua è di pinguino mi è. Oh, ma chi da più una buona? Qual è la niera? Quanto è buona vista, che è più buona la giuretta che lo fra dedo. No, ma tu stai confondendo, Rossana grande. L'ho vista una volta al funerale, bella, una bella ragazza si è fatta, Me la ricordavo, era un mezzo grongo. Aspetta, quale delle tre? Io non me la ricordo per nome, una era un mezzo grongo. E quella è Rossana allora. Quello vuoi dire Carlista. Fasi al cantatore a Giada. Giuseppe, te lo conosco. Non parlate male che se non vi porta iella. Perché non stiamo parlando male? No, stiamo parlando di gente che conosciamo, voi, il mio compare, ti puoi immaginare. Sì, l'ho visto l'altra volta al mercato. C'è l'antagrassato che. Oddio, cos'è il tuo compare? Sì, da ragazzo. infatti no, compare così, compare accudito, compare vero e proprio l'altro. Ah, e tanto lo siamo viaggio devo fare il camioncino, il Nissan. Non lui no, quello è Giuseppe, no, no, stavo parlando di Antonio, il cognato. Ah, no. No, quello è Giuseppe, che sarebbe il marito di Rossana. Sì, lo so, mi ha fatto parecchi viaggi qua, che c'è la gruetta, c'è lì dove c'è la Bricol. Esatto, No, a noi Antonio ci porta a volte quando, adesso non più, perché abbiamo fatto delle modifiche, ma quando mancava l'acqua ci portava la cisterna dell'acqua Antonio T. Con lo camion del padre, di signor Nino, sì. Sì, chi sono Gamio Vecchi, che l'ha eredita a duetto, ma morto il signor Nino? Ma non credo, non ho saputo niente. No, io poi mi sono venuto anche con, da poco con Angela, la compagna. Sì. No, io l'ho visto al mercato, ma è ingrassato. È ingrassato. E allora, già non ti diciamo, ma è saturo. È una mazza che deve fare, ragazzi. Allucinante, e poi si muove a volte, è una cosa allucinante, una bocca di cane. Oh Dino, ho un'info, ma non ti hanno più dato risposta da là? No, assolutamente, sono sceso e ho portato in mano il Puglio, nulla, niente di che. Boh, senti un po' se c'è movimento. No, perché mi è arrivata la mezza voce stasera. Capito? Io già mi informo in questa settimana, va. Comunque tu informati se c'è il numero a fare un altro squilletto, che c'è un po' di movimento, capito? No, toccherà scendere e vedere, valutare un po', perché vabbè, se te ne parlerò magari dal telefono, così almeno ti dico, anche a me hanno dato delle dritte, ma non tanto dritte dritte. Va bene, vabbè, ok, ne parliamo al telefono. Avanti, doppio. E doppio al telefono, io faccio il triplo. Beh, signori, vi saluto, che pronta la cena. Ciao Gianni, lo profeta, Gianni Occhio Roma, Massimiliano, Tino, Antonio Grobbe, chiunque fosse in ascolto. Buon fine serata a tutti, a domani, ciao, passo e chiudo. Aspetta, rifai il passaggio che avete parlato in due, io. Vi ho detto che sto chiudendo. Ci sentiamo domani, saluto tutti circolarmente, a domani passo e chiudo, cambio. E ciao Claudio, ciao, buona serata. Va bene, riprendo io, dai, ciao Claudio, ci si riascolta, se ne vuole aspettare. Ciao Claudio, buona serata, ciao. Ciao Claudio, visto vai quanto è tragico, no? Ciao, passo, chiudo all'8:30, allora i giardini andranno a mangiare e poi non riprende più perché sennò c'è il coprifuoco dopo le 8, capito? 8:30. Invece è bello anche dopo cena, una chiacchierata, ma ultimamente vista a mezzanotte di luna, ma non ci arrivai sempre attaccato alla televisione. No, ma quella è Anna che voleva di fare. Abbracci di me dal guru, ciao, buonanotte. Sì, vai, gli attassillo i messaggi alla WhatsApp, e va. Ciao Claudio, buona serata. Dov'è? Sta facendo mettere i piedi sotto da Maiorino, sì. Oh, giù un peso, passo, chiudo, le 8:30, copri fuoco, tutti a nanna, vai a cuccia, finito. Guarda, io sono anni, dall'era che stavamo continuo fino alle 3-4 del mattino, guarda. Se no non mi va più, io mi ceno, poi divano, televisione, mi pare che ci sia la Champion anche, se c'è il Barcellona lì per pure la Baido e poi basta, non mi va di stare qua, no, non giocare. Ciao, arrivederci, buon viaggio a tutti. Ciao. Vabbè, allora io scendo un secondo giù che sono arrivate le signore, là. Una grande e una piccola, le saluto e poi riprendo. Ehi, io invece ne approfitto per salutarvi tutti e porto giù a Taiso. E poi me ne risalgo. Ciao. Stiamo bene, ciao a tutti quanti, così per me sono qua. Ciao Gianni, buona serata. Ciao Gianni, stammi bene, dai, ciao. Io ciao a tutti da parte di Antonio Grosse. Ciao a tutti da parte di Antonio Grosse, ciao. Ciao Antonio, ben sentito. Quindi? Ciao Antonio, ben sentito. Ciao, ben sentito a te. Anch'io rimango in QRX e dopodiché chiudo. Buona serata. e buona, buon carica batteria a tutti, ciao. Anto, un info, da dove stai modulando? Sto modulando però non con un'antenna Siria, sono dentro un appartamento via Rockefeller. Molto basso il radio dalle mie parti, quindi faccio fatica ad ascoltarti. Comunque già stai arrivando, il segnale ci sì, ma la radio è proprio limitata, Sì, ma è un microfono molto standard. Poi la radio è una radio vecchia, un Inuit CB234, un cattorcio. Poi ti ripeto, sono proprio dentro l'appartamento. Se passi in via Rockefeller bassa la vedi l'antenna, però non sto usando quella, dai. Di nuovo, buona cena a tutti, ciao. Anche io vi saluto, dai, che vi devo lasciare. Tiro, ci sentiamo, dai, ciao Antonio Grodos, ciao Gianni. Ciao Tino, chi fosse in ascolto, io vi devo lasciare che devo scendere giù e devo uscire urgentemente. Va bene Massimiliano, ci si riascolta, dai, alle prossime, buona uscita, buon rientro, buon tutto. Riprendi Grotto. Gianni, riprendi tu. Mi sa che sì, stava staccando anche lui, un altro paio di passaggi anche per me, poi scappo anche io, dai. Niente. Poco fa quando ho provato il portatile, il mio Tino, mi hai sentito? No, però ne voglio approfittare anche a chiederlo a te, perché sto utilizzando un'altra radio e volevo sapere se era piacevole o meno, se era troppo amplificato o quant'altro. Questa che sto utilizzando ora è un modello vintage, mi devi dare conferma per come la senti, più che altro. No, va benissimo, si può chiacchierare tranquillamente rispetto a quello che usi di solito, ti ripeto, sempre per orecchio mio personale. Va benissimo, è un buon standard, cioè va benissimo per fare QSO e tutte cose. Quindi è ottima, ti ripeto, è proprio per una questione di orecchio. Questa non mi disturba, mentre non dico sempre, però quando usi altra roba, insomma, faccio difficoltà a seguirti, capito? Sì, dai, capito tutto quanto, no, vabbè. Anche per seguire il discorso, insomma, è meglio più un po' più rilassato, più una cosa più calda. No, provo, vai già, così vedo un po' se arrivi qua, credo di sì, eh. Vabbè, l'ho attaccato poco fa, volevo fare una prova per vedere se Tino qua con il mio portatile dentro casa riusciva a sentirmi, ma chiaramente non c'è trippa per gatti, con tutte le mura che ci sono poi dentro casa, cioè è assolutamente impossibile. Claudio mi sentiva, però lui giustamente non riusciva a sentirmi, e io uguale quando ha messo l'antennino. Prova, vediamo se ti ascolto io. Aspetta, ti ascolto leggero con un Santiago di 3,5, radio quasi inesistente, però ho capito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mi hai chiamato, sono riuscito a ascoltarti, basso. Sì, vabbè, sono sempre dentro casa, quindi sono sicuro che se salgo su in terrazzo magari, o mi metto vicino alla finestra, sono sicuro che magari il segnale cambia. Vabbè, era giusto un esperimento volante. Sì, sicuramente sì, la radio, vabbè, è quasi inesistente, un segnale, ti ripeto, 3,5, quasi 4 anche, è oscillante, però la radio è molto molto bassa. Già lo sai cos'è, cioè ha il microfono suo incorporato, quindi è quella la questione, vabbè, sicuro che se cambio posizione magari mi senti meglio. È probabile, può farlo, sì, magari più performante anche, dai. Sì, anche se vecchiotto già funziona ancora, dai, non ho... Già va bene, intanto il suo già ce lo fa. Infatti quando ho visto che Massimiliano ha messo l'annuncio, ero lì per scriverlo, poi ho visto che è già risolto, quindi va bene così. Ah, ho capito. Va bene. No, ho deciso di tenermelo. potrebbe essere utile, in insomma, potrebbe essere sempre utile, dai. Ma guarda, noi sinceramente parlando, quei portatili lì li utilizzavamo quando allora si usava andare alla festa di San Gavino a Porto Torres, no? Quindi vuoi che qualcuno non si abbia portato a pezzo, è giusto così, anche per parlarci tra di noi, capito? Era una cosa bellina, ma adesso, ti ripeto, stiamo crescendo, ormai non scendiamo più neanche alla festa, alla camminata, e quindi non lo so, dipende dall'uso che uno ne vuole fare, ecco. Già me la ricordo la camminata, una volta l'avevo fatta nel signor Burutu, ma sono passati millenni adesso, poi no, addirittura no, non so se si fa ancora, boh, non so se esiste, se esiste ancora quella tradizione lì. Ma io credo di sì, però non lo so se realmente la stanno continuando a fare. La festa c'è sempre, però la camminata sinceramente sono anche io tanti anni senza andarci, senza, ho un grande divertimento, io ho fatto forse 4 volte, 5 volte con 3 ore di camminata con la gente giusta, con gli amici giusti, quindi divertimento a mille, conoscenze idem, il ritorno era un po' stressante, perché non è che rientravi la mattina, rientravi dopo 2 giorni, perché poi andare per mare tra una cosa e l'altra, quindi la festa durava i 3 giorni della festa del produttore. Sì, già mi ricordo, sì, più o meno mi ricordo la questione era quella, dai, poi c'è chi si ritirava prima e c'è chi faceva tutta una tirata, giustamente. Mi ricordo le varie camminate, la notte, vabbè, dopo svariati anni, ma mi capitava di passare in moto, cosa ne so, e di vedere gente con il lanternino, quindi, no, ti ripeto, l'ho fatta solo una volta e ciccia. Vabbè, poi ci fa quando c'è ragazzi, poi quando molta gente, cioè, era un usante, era una promessa che si faceva che faceva la promessa, la faceva con lo scopo di arrivare in chiesa, sentirsi la messa e poi rientrare. Noi invece la facevamo con lo scopo del divertimento, di fare cionfra e quant'altro. Vabbè, era un come si dice? Adesso non mi viene il termine. Era lo spunto per, insomma, per fare aggregazione più che altro, per stare in comitiva. Poi, come hai detto tu, giustamente, c'erano quelli che preferivano fare altro, dai. E allora. Va bene, stiamo crescendo, grazie a Dio, abbiamo conosciuto quel tipo di periodo lì che secondo me era, tra virgolette, uno dei migliori, guardando il giorno d'oggi. Molte cose sono purtroppo cambiate in peggio. Mai queste parole mi ero sognato di pronunciarle, però voglio dire, adesso che ci sono, adesso che sono qua, mi accorgo che insomma molte cose purtroppo sono cambiate, e purtroppo sono cambiate in peggio, e vabbè, e cosa vuoi ti dica? No, vabbè, anche io sinceramente da ragazzino, sai, non vedo l'ora di crescere per conoscere cose nuove, però tornando indietro dici, ma quando ero ragazzino io c'era più divertimento, sì, ho conosciuto come si dice, la tecnologia, però voglio dire, tornando indietro forse erano meglio gli anni che abbiamo passato che quelli che stanno arrivando, ma vabbè. Speriamo in bene, speriamo che le cose cambiano, ma non tanto per noi, ma tanto per i nostri figli, domani, che le cose siano un po' più alla mano. Va bene, già, dai, ti saluto, rimango un attimino al computer, sto cercando un componente un finale, se riesco a trovarlo, e vedere un po' quanto ne vale la pena comprarlo da fuori, per poter riparare un piccolo linearetto, se no gira. Non viene con le linee già pronto che ha fatto l'operazione, ma vediamo. Eia, andavè, dai, ne colgo l'occasione così stacco anch'io. E niente, ci si aggiorna domani o quando è. Ok, quindi buona serata, buon tutto e buon ascolto a chiunque fosse sul 10. Ciao Tino e ciao a tutti i gatti. Eia, ciao, ciao, buona fine guarigione, diciamo, così almeno riprendete al meglio. Ciao, buona giornata per domani, buon tutto. Bene Meda, alla prossima. Ciao, ciao.